Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo appuntamento di questa ultima settimana di luglio insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bollette è un tema ricorrente nei nostri collegamenti di questi anni e qui parliamo di una quantità di bollette impressionante, arrivata in solo i due giorni, 35 bollette. Raccontaci questa vicenda. Sì, allora anche noi che ci occupiamo ormai tutti i giorni di problematiche di bollette, questa forse è la più incredibile, non per importi ma per quantità, perché è capitato che una dottoressa di Treviso un bel giorno si è vista recapitare esattamente 35 bollette di Enel Gas per un utente che aveva chiuso 8 anni fa. Una vicenda che ha sconcertato molto la signora, che in questo caso dopo vari tentativi ha cercato di risolvere la sua problematica, alla fine scontrandosi contro il muro di gomma ha pensato bene a rivolgersi all'Adico. Cioè, questa signora era un medico nel suo ambulatorio, lei appunto aveva poi cessato l'attività, ha ceduto l'attività ad un suo collega, ma all'azienda non risultava quella che si chiama voltura, giusto? Esattamente. E parliamo di 35 bollette per un importo complessivo di 7.000 euro, però parliamo anche di una vicenda che mette in luce come ogni volta che ci siano questo genere di problemi, l'utente privato riesce sempre a fatica trovare delle soluzioni, come in questo caso la signora non è riuscita a fare, e costringe il privato a rivolgersi, fortunatamente, come ha fatto l'associazione dei consumatori, in questo caso a noi, all'Adico, perché chiaramente dimostra come call center, siti internet o qualsiasi altro dispositivo tecnologico, alla fine quando si presentano degli inghippi non se ne riesce mai a venire a capo di una risoluzione. Di che cifra parliamo? Perché immagino 35 bollette, alcuni anni di accumulo, penso fossero alcune migliaia di euro. Sì, parliamo di una cifra di circa 7.000 euro, ma parliamo anche adesso di una situazione che l'Adico ha impugnato, diffidato subito l'ente, l'abbiamo risolta in giro di pochissimi giorni, però è anche vero che adesso la dottoressa dovrà aspettarsi 35 fatture di stono nei prossimi giorni, per cui ci sarà ancora da divertirsi se alla fine le 35 le fatture che di stono che aspetta abbiano un esatto importo di quelle che sono state le richieste di addebito. E quindi sicuramente è una vicenda che anche se conclusa positivamente, ma causerà ancora motivo di divertimento per l'interessata e per noi che insomma in queste vicende siamo abituati a sgracciarci ormai ogni giorno. È un divertimento tra virgolette, ovviamente. Per fortuna credo la signora non avesse il RID, cioè l'addebito diretto in conto corrente. Guarda amico, quando si parla di bollette purtroppo bisogna sempre aspettarsi al peggio. Molte volte, come hai accennato tu adesso, c'è il rischio che le persone trovano le amare sorprese quando arrivano gli addebiti e poi il cartaceo. Fortunatamente in questo caso la signora si è trovata nella situazione che non gli è arrivato l'addebito ma gli è arrivato la bolletta, che quindi intimava un pagamento, un bollettino, e fortunatamente non si è trovata nella situazione di chiedere i soldi indietro. Però, come ho occasione parlare in questo collegamento, le vicende che coinvolgono le persone, le problematiche legate alle bollette sono tantissime, e noi ricordiamo quelle anche in cui si trovano imprese o famiglie senza corrente o con depotenziamento dell'energia data, per effetto di situazioni in cui molte volte il consumatore ha ragione, ma magari per errori banali, incomprensioni o errori delle poste o domiciliazioni, vulture che insomma non vengono registrate, poi creano sempre un iter che non si risolve mai in pochi giorni e che crea moltissimi disagi. Hai detto che in pochi giorni comunque voi siete riusciti a risolverla, ma spiegaci in che modo, cioè siete riusciti a contattare le aziende a far verificare che la voltura ci fosse? Beh, chiaramente l'Adico nella storia dei suoi 28 anni ha consolidato dei rapporti con i gestori di assoluta efficienza e di dialogo diretto. chiaramente producendo subito quella che era la documentazione in possesso della dottoressa e con l'esperienza dei nostri esperti, siamo riusciti subito a trovare un ragionamento che portasse a un epilogo favorevole alla signora, e di conseguenza adesso, come ho detto, si attenderà un invio di 35 stoni. Però in altre situazioni, che magari come la dottoressa ha cercato per mesi di destreggiarsi autonomamente senza riuscire a venire a capo, dimostra come i rapporti a volte non sono così semplici, e noi aggiungiamo come mancano anche gli uffici territoriali per poter, non solo per telefono ma anche di persona, risolvere delle controversie che a volte sono banali ma che ci fanno perdere un sacco di tempo e creare un sacco di disagi. Per fortuna allora questa vicenda si è chiusa, si sta chiudendo nel modo migliore, grazie anche al vostro intervento. Ricordiamo associazionedifesaconsumatori.it anche per altre vicende, altri sportelli nel corso anche di tutta questa estate. Carlo, noi ci ritroviamo tra qualche giorno per una nuova vicenda. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.